Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag sempre per chiusa Twitter, il sabato del villaggio un po' lungo, quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Anche per questo fine settimana torna l'appuntamento con i biglietti per le date dei concerti di Enrico Ruggeri. State con noi perché tra poco vi darò tutte le indicazioni per portarvi a casa i biglietti per i concerti di Enrico Ruggeri. Ma intanto ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Musica con il nuovo album di un artista sempre amatissimo, Antonello Venditti. La pubblicità Croce e Delizia torna in Italia per gli appassionati la notte dei publivori. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini. Questa volta parliamo di come conservare con cura i propri dati. Tanto, tanto cinema, tutte le novità nel weekend. Ma subito io metterei un disco. Pietro, metti la puntina. Pretend that we don't miss where we started. Ma cosa sarà mai questo brano? Si intitola Kids in the Dark e l'album è al primo posto della classifica ufficiale dei dischi in vinile in Inghilterra, perché in Inghilterra c'è finalmente una classifica di soli dischi in vinile. Come mai ne parliamo? Ne parliamo perché oggi è il Record Store Day. È dal 2008, il terzo sabato di aprile in tutto il mondo, è il giorno in cui si celebrano i negozi di dischi. Nato per aiutare gli indipendenti, cioè quelli non delle grandi catene, è un appuntamento che è un'occasione per fare il punto sulla rinascita dei dischi in vinile avvenuta nel mondo negli ultimi anni. Allora, io lo faccio subito coming out, ho un grande conflitto di interessi perché sono una grande collezionista e poi la mia famiglia si è occupata di dischi in vinile per tanti anni, quindi ho grande grande amore per questo mezzo. Ha scritto un pezzo molto bello qualche giorno fa un amico del Sabato del Villaggio, il critico musicale del giornale Paolo Giordano. Ciao Paolo! Eccomi, ciao! Ma meno male che mi dici così, ho letto e ho scritto un pezzo molto bello, cioè sono due concetti che ormai sono sempre più difficili. Leggere e scrivere sono due cose molto difficili. Paolo, ma davvero è tornato il vinile? Dobbiamo subito dire che i numeri sono piccoli, i numeri in senso assoluto non sono grandi, però la passione c'è, è tornata. Ma i numeri sono piccoli, ma l'incremento è grandissimo, nel senso che in un anno le vendite di vinili sono cresciute tra il 60 e il 70% rispetto all'anno precedente, quindi questo significa che c'è una richiesta non soltanto legata a quello che molti possono immaginare, cioè legata al pubblico vintage, al pubblico vecchio come me o più vecchio ancora, che è cresciuto con i vinili. No, ci sono tantissimi ragazzi che comprano il disco in vinile, e lo conferma il fatto che persino AVC o i White Stripes hanno pubblicato dischi appositamente per il Record Store Day in vinile, il che significa che il loro pubblico è molto più giovane di quello ad esempio dei Dire Straits oppure degli Eagles oppure di altri gruppi storici come Rolling Stones o cose del genere. Vuol dire che l'ascolto caldo che esce dal vinile è un ascolto che convince anche chi col vinile non è nato. Io sono nato col vinile, io mi ricordo i sabati pomeriggio trascorsi in un negozio di dischi a cercare il disco che mi piaceva di più. Grandissimo Paolo, è così che sei poi diventato critico musicale, tra un vinile e un altro. Senza conoscere il gruppo, io vedevo la copertina, la guardavo, leggevo il produttore, le note di copertina, come era disegnata, insomma, e anche senza conoscerlo lo compravo e sapevo che mi sarebbe piaciuto. Quindi da un certo punto di vista ci sono gli artisti nuovi che ristampano le loro uscite, che stampano le uscite anche in vinile, magari in edizione limitata, ma ci tengono. E poi parlavi nel tuo pezzo qualche giorno fa sul giornale invece di grandi rarità, di pezzi amatissimi e che fanno ingolosire i collezionisti. Beh, sì, allora bisogna distinguere, ci sono gli U2 che hanno pubblicato da poco, insomma da pochi mesi, un disco che esce in versione in vinile, in versione appositamente per Record Store Day, e questo è davvero un oggetto di culto per chi non può avere, cioè per chi deve avere tutto ciò che hanno gli U2, quindi si compra il disco che è uguale ma ha un marchio diverso e due o tre cose appena appena cambiate. Ma ci sono delle pubblicazioni, tipo il disco dei Kinks, il primo EP che i Kinks fecero più di 50 anni fa, prima ancora del loro disco di esordio, che è qualcosa di raro e che altrimenti o lo trovi usato a Portobello Road oppure in qualche negozio di dischi di periferia, ultra periferia, o se no non lo trovi più. Oggi c'è nei negozi, lo puoi trovare nei negozi e lo puoi trovare in versione appositamente stampata per questo giorno. Io tra l'altro posso dirti una cosa, Marta, io proprio legato al Record Store Day ho un grosso rimpianto, nel senso che una accidenti. Volta avevo comprato un 45 due o tre anni fa credo, di Clapton con una versione particolare di Layla. Mm-hmm. E che fine ha fatto? Arrabbiare. E anche un 45 con due versioni live di AC/DC e sono sparite. No, ma come sparite? Lascia perdere. Devo chiamare l'ispettore Negre perché non dovevi dire di avere, qualcuno l'ha saputo e si esatto. è, e si no, è intrufolato. Li ho esposti. E questo, vabbè, d'altronde come senti Marta, ci sono, lo so, ci guarda, sono quelli che comprano la macchina e la parcheggiano sotto casa, il macchinone, per far vedere che hanno la macchina nuova, e sono quelli che comprano il 45 giri raro di Eric Clapton e lo vogliono far vedere. Hai ragione, è un conflitto, perché cosa fai? Compro dei dischi e li nascondo e li tiro fuori per ascoltarmeli da solo? Certo. Tra l'altro, allora, i 5 album in vinile più venduti del 2014 in Italia sono stati The Endless River dei Pink Floyd, Sono Innocente di Vasco Rossi, beh, come sempre The Dark Side of the Moon, sempre dei Pink Floyd, Rocker Burst degli AC/DC e Songs of Innocence degli U2. Avevamo già fatto questo discorso, Paolo, alla fine i grandi vecchi sono quelli che vendono più supporti di tutti. Sì, cioè credo che sia anche una lezione per i grandi giovani da apprendere. Il disco, come tutto peraltro, è talmente frammentato che bisogna distinguersi in tante diverse derivazioni. Ci sono gruppi come Pink Floyd che onestamente con l'MP3 non possono avere a che fare, perché il suono, la qualità del suono, la ricerca sonora di qualsiasi brano di Pink Floyd dal 68 adesso è incompatibile con l'MP3, quindi loro sono obbligati in qualche modo a pubblicare dei dischi in vinile e a diversificare la propria offerta sul mercato. Per quanto riguarda invece i giovani, vorrei citare un esempio di un giovane, di un rapper italiano, che si chiama Dargen D'Amico, il quale era soddisfattissimo della vendita del suo disco, non questo che è appena uscito, ma quello precedente, in una versione limitata con gli occhiali. Dargen D'Amico è diventato conosciuto perché ha questi occhiali particolari, e ha detto: io proporzionalmente ho venduto più edizione limitata di quelle copie normali che si trovano nei negozi di dischi dappertutto oppure online, il che significa che il futuro per noi del settore, in qualche modo, io non sono musicista ma insomma per chi si occupa di musica, è diversificare, e così è anche per i musicisti, è diversificare, non fare come una volta, cioè come per 30-40 anni che hanno fatto il disco e poi la tournée e poi il silenzio, poi il disco e la tournée. Io credo che questo momento e anche il successo del Record Store Day e del mondo del vinile confermi l'esigenza di diversificare il mercato. Paolo, allora questo fine settimana, oggi Record Store Day, ma questo fine settimana ci sono anche delle belle iniziative che riguardano il disco da collezione. Io ne voglio segnalare una per chi fosse a Milano, in zona San Donato Milanese, oggi e domani la mostra mercato del disco, del CD, del DVD usato e da collezione. Mi hanno preparato una musica, non so ancora qual è, io ascolto e sentiamo cosa c'è. Facendo il notiziario cambogiano da una radio libera per chi il microfono è un po' fallico, però il potere non ce l'ha, no no. Circondato dai mass media sulla sedia io lavoro sempre gratis, ma c'è Antonietta che mi ama, che mi aspetta tutta notte, lei mi ascolterà. No, non è una radio cambogiana, questa resta sempre una radio italiana, però per andare a parlare della magia di questi dischi, chissà se è vero che i vinili suonano ancora meglio, e sicuramente suonavano bene i dischi di qualche anno fa, abbiamo finalmente di nuovo a Radio 24 un amico degli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno Ricky Gianco, buongiorno. Ciao. Ricky, ciao. Ah, quanto ci manchi, torna a trovarci ogni tanto, dai. Ma non lo devi dire. Dai, torna a trovarci ogni tanto, Ricky. Allora, oggi tu sarai in realtà tra poco, alle sì, 16, sei la rotonda, facciamo tavola rotonda. Ah, che bello, tavola rotonda con... Ma io perché non posso mollare qua la trasmissione? Perché sennò verrei a sentirvi, perché ci sono... Magari... Sì, ci si divertirà. Credo, ma dai, Ricky Gianco, Carmelo La Bionda, rappresentati dei Dick Dick, Camaleonti, fantastico. Tu cosa ne pensi di questa rinascita e di questo ritorno del vinile, Ricky? Ma credo che sia un'esigenza commerciale, tutto sommato, industriale, visto che anche il CD ormai ha stancato già, perché già avrebbero superato tecnologicamente anche CD, DVD, cioè qui vanno avanti, forse per rinverdire il mercato, forse per ridare una novità, nuovo contesto, visto tutti i giovani che non sanno neanche cosa siano i dischi, i vinili, probabilmente potrebbe essere una buona cosa per riaprire il mercato alla musica attraverso un supporto che tra l'altro è bellissimo, perché quello che tu riuscivi a fare con la stessa copertina, voglio dire, ah, con la busta interna, le fotografie, i disegni, l'arte che deve essere applicata, che spesso io, per esempio, molti LP che ho fatto, li ho fatti con i pittori, li ho fatti, cioè, dando un'importanza anche a una copertina che adesso una sua ragione di esistere, capito? Per cui, secondo me, è una cosa bella. Senti, si sentivano, prima il nostro Paolo Giordano ci diceva il calore del vinile, si dice che poi alla fine la musica digitale, i CD siano più freddi, tu cosa ne pensi? Sì e no, guarda, credo che sia anche un fatto soggettivo, adesso essere tecnici specifici per riuscire a fare cose del genere credo non sia da tutti, forse da solo da qualche esperto, da qualche... Altrimenti, capito, è come la storia di registrare in digitale o in... Anche io, per esempio, ho fatto un disco un po' di anni fa in America con i Toto a Los Angeles e abbiamo registrato non in digitale, perché ci sembrava più caldo il suono per fare rock, eccetera. Però poi alla fine, quando tu senti il prodotto finale, insomma, intanto per poter minimamente capire che ci fosse una differenza, dovresti sentire prima un CD e poi... Certo, bisognerebbe fare il confronto. Se non c'è un confronto non puoi. Poi la verità è che quelli che sanno suonare davvero, poi sanno suonare davvero, tipo Ricky Gianco. Ricky, no. Allora noi no, ti aspettiamo però da queste parti, Va bene, d'accordo, ok. Ricky, allora alle 16 a San Donato per sì, la tavola rotonda all'interno della mostra mercato del disco, del CD e del DVD usato e da collezione. Salutiamo anche Pietruccio Montalbetti che doveva essere con noi, ma che insomma si è un po' perso nelle onde del telefono, accidenti, volevamo anche salutare Pietruccio, ce l'avremo presto. Lo saluterò io. grazie, okay. Ricky, grazie. Ciao. E grazie anche a Paolo Giordano, che è stato con noi, che ha scritto, l'ho detto, il pezzo più bello sul Record Store Day in questi giorni sul giornale. Grazie Paolo. Grazie. Io sono stato muto in silenzio a sentire, ad ascoltare ciò che diceva Ricky Gianco, perché lui è davvero una delle colonne della nostra musica, non sempre valutata quanto effettivamente meriterebbe. Sono d'accordo con te, poi questa gente sa suonare davvero, altro ragazzi, che Paolo, ciao, un abbraccio a tutti, un abbraccio a Paolo Giordano. Noi invece ci risentiamo tra pochissimo, perché abbiamo tutte le indicazioni per chi sta viaggiando. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Il sabato del villaggio. Prima di tutto, lo so che siete già pronti col telefonino in mano per mandarci un messaggio al 349-238-6666 per i biglietti del tour di Enrico Ruggeri. Allora, questo fine settimana abbiamo da regalarvi 6 coppie di biglietti per la data di Milano al Teatro Nazionale del 27 aprile e 5 coppie di biglietti per la data di Torino, Le Roi, del 28 aprile. Cosa dovete fare? Mandarci un messaggio al 349-238-6666 con il vostro nome, la data che preferite, il modo per contattarvi, e metteteci anche il nome del tour di Enrico Ruggeri. 349-238-6666, 6 coppie per il 27 aprile a Milano al Teatro Nazionale, 5 coppie di biglietti per la data di Torino, Le Roi, del 28 aprile per il tour di Enrico Ruggeri. Io sicuramente sarò a Milano. Adesso parliamo, ve l'ho detto, di pubblicità. Io so che la pubblicità entra nelle nostre vite e nei nostri ricordi più di quanto ci possiamo immaginare. Ad esempio, vi faccio ascoltare qualche nota, i meno giovani entreranno subito in atmosfera. Cosa c'è? Cosa c'è dentro te? Cosa c'è dentro te? Forse tu non lo sai, c'è un piccolo cuore di panna. Era il cuore di panna, era il 1982, appunto. I meno giovani, beh, insomma, si ricordano benissimo di cosa succedeva nel 1982. Ma nel 1985 cosa c'era? Cosa si cantava? Se quello che cerchi è un cuore da mare, un piccolo cuore per farti sognare, un giorno d'estate un cuore di panna troverai. Avete cantate tutte, sono le pubblicità del cuore di panna 1982-1985. Io mi ricordo che da bambina pensavo che l'estate arrivasse solo quando arrivava la pubblicità del cuore di panna, del famoso gelato. Le pubblicità sono croce e delizia per tutti. C'è anche un tipo molto particolare di persone che si chiamano i publivori. Io ne faccio parte molto molto fieramente. Sono persone che adorano guardare pubblicità una dietro l'altra, tanto che da molti molti anni esiste la notte dei publivori. Sono delle notti intere di spot uno dietro l'altro, e finalmente questa notte dei publivori torna ancora anche in Italia. Da giovedì 23 aprile a sabato 25 aprile ci saranno quindi 3 sere di su tutte pubblicità, e saranno al Blue Note di Milano. La mente della notte dei publivori italiana ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno a Riccardo Cioni. Ciao Marta, oh, che bellissima introduzione che hai fatto. Beh, ti vedevo tu sulla panchina con il gelato. Esatto. Ma tu lo sai che sono l'amore, un'appassionata. Ma sì, dai, erano romantiche, ci facevano molto sognare bello. Queste pubblicità fanno parte del nostro immaginario, le pubblicità, dai Riccardo. Assolutamente, poi hai indovinato il tema di questa edizione, che farciremo un po' la notte dei pubblivori anche con tanti spot food. Il nostro archivio, che parte dal 1898 esattamente, quasi 1.400.000 spot, fino a oggi selezioneremo tanti spot sul food, e questo del cuore di panna non poteva essere che un'introduzione straordinaria. Riccardo, la notte dei publivori, che è un'invenzione francese di un sì, genio che è Jean-Marie Boursicot, che ha sì, collezionato tantissime pubblicità nel corso, esatto, degli anni, è un evento mondiale. In Italia ha dei fan tanto appassionati che so che le prime sono già sold out. Sì, il giovedì 23 alle 23.30 abbiamo già chiuso la biglietteria. Restano ancora in questi tre giorni, siccome quest'anno cerchiamo un nuovo format, proviamo i due spettacoli alle 21 e alle 23.30 per cercare di conquistare un po' tutti e anche soddisfare chi magari aveva degli impegni, non poteva o partiva per il weekend. Comunque siamo molto contenti della prevendita e in più andiamo al Blue Note, che è la patria della musica. Sai che la musica per uno spot è il 50% dell'impatto emotivo. Beh, senti, la musica è quella che subito ci fa ricordare come queste pubblicità, il passato, oppure ci sono delle pubblicità che sono un rito per gli appassionati della notte dei publivori. Ce n'è una in particolare che da tanti e tanti anni viene infilata in tutte le notti. Non so se l'avete messa in questa qua, in questa notte dei pubblici, in questa edizione, ma è una pubblicità africana. E quando parte questa, tutto il pubblico dei fan della Notte dei Publivori si mette a ballare la coreografia. È la pubblicità di uno spray anti-zanzare ed è questa qua. Super Timor è là! Super Timor è ancora più fort avec sa nouvelle formule. Super Timor. Le temps de sentir l'odeur Super Timor. Les insectes sont déjà morts. Super Timor. Riccardo, stai ballando alla coreografia di Super Timor? La sai, sì. Non sono la persona adatta perché non ho quel ritmo, però adesso siamo in studio e vado subito a controllare se nel secondo blocco l'abbiamo inserita, se no per te un piccolo omaggio. Mi la metti inseriremo anche in questa edizione. No, perché io non posso mancare. In realtà sono spot cult che noi cerchiamo di riproporre anche perché sono idee originali dalle quali poi sono state generate tante copie. Quello che è fondamentale della notte di pubblicità, che è un viaggio nella comunicazione, nelle idee della pubblicità di tutto il mondo, ma anche che è uno stimolo per produrre nuove idee, quindi è una serata che ti fa un refresh neurale, neuronico straordinario. Sono d'accordo, grazie Riccardo. Allora, 23, 24, 25 aprile al Blue Note di Milano, sperando che poi insomma possiamo annunciare presto date ancora in giro per l'Italia per la notte dei publivori. Grazie a Riccardo Cioni, ti lasciamo allora montare tutti i rulli delle pubblicità. Sì, c'è una piccola novità quest'anno, che effettivamente al Blue Note c'è la possibilità di fare un po' come quello che facevamo a casa guardando la pubblicità, cioè vedere la pubblicità e anche mangiare il famoso birra e salsicce o cioccolato e salsicce, quindi proprio tutte quelle cose che di solito fanno male le potremo fare insieme al Blue Note il 23, 24 e 25. Sono pronta, Riccardo, sono pronta. Non grazie. Grazie a Riccardo Cioni. Noi adesso torniamo a parlare di musica. Cosa avevi in mente quando ti sei ripresa tutti i tuoi giocattoli? Sei tolta le scarpe e inseguito gli scoiattoli. E ti sei bevuto un intero inverno barcollando al ritorno. È una rosa sul polso. Esce finalmente, lo dico finalmente col cuore, un nuovo album di Antonello Venditti. Si chiama Tortuga, che è il nome di un'isola, certo, ma anche del bar di fronte al Giulio Cesare, cioè il liceo romano, lo sanno i fan di Antonello Venditti, punto essenziale nella geografia emotiva del cantautore. Ci ha fatto aspettare 4 anni Antonello Venditti e lo ha incontrato finalmente per noi Francesco De Remigis. È il giusto tempo per poter analizzare qualcosa, perché è tutto in corsa, tutto avviene tutun, tutun, tutun, e non, almeno io penso ancora che le canzoni debbano esprimere il tempo che vivi, le tue sensazioni, dei momenti che tu hai, quindi anche vedere in chiave storica quello che fai, e se non c'è il tempo che tipo di analisi anche su te stesso fai? Niente. Quindi un'analisi su te stesso che riparte anche da un passato molto lontano, da Tortuga appunto, come sei riuscito a ripercorrere questi anni? C'è un passato musicale che io ho vissuto con la tournée Ritorno al Futuro, per cui mi sono dovuto confrontare prima di iniziare a fare questo album con veramente con Sora Rosa, con Lilli, con Marta, con Giulia, lo Stambecco Ferito, le cose della vita, cioè, cosa che non avevo fatto prima, è proprio la mia incoscienza che mi ha portato poi a fare In questo mondo i ladri, Benvenuto in paradiso. qui invece c'è consapevolezza e mi dispiace un po', perché non c'è, però c'è la necessaria pazzia di farlo, quindi, quindi è interessante. Cioè, Ragazzi del Tortuga ti amo inutilmente, ne piacciono tanto, vissute però in un altro modo, quindi è un po' Benvenuto in Paradiso come atmosfera, però più consapevole. Torna anche la centralità di Roma in questo album? Apparentemente sì, però Roma è un po' come una stazione da dove si parte, un po' come se fosse il Tortuga, dovrebbe essere una qualsiasi stazione italiana dove tu arrivi per ripartire, quindi io ritorno per ripartire, poi riparto per tornare. Anche nel raccontare le canzoni d'amore uno stile un po' diverso, più maturo, più sereno? No, anche qui c'è una consapevolezza che quando parli d'amore non c'è mai niente di definitivo, ecco, per cui forse siamo un po' lontani da certi amori, non finiscono, fanno dei giri in mezzo, poi ritorna. Non è detto, forse. Oppure sì, perché è un sentimento, comunque l'amore è sicuramente un fatto unilaterale, che è un atteggiamento anche nella vita, che poi le canzoni d'amore, come al solito, sono più politiche di quelle che sembra, per cui il ti amo inutilmente è proprio globale. Ecco, però ci provo. Social network, sì. Tu non hai una buona opinione, mi è sembrato capire, di questo. No, sono una parte. Una parte veramente del tutto virtuale, per cui uso Facebook, tutto quanto, però sempre relativamente al mezzo, credo che vada usato tutto. Mi fa piacere che ci sia Facebook, ma mancherà tutto. Se si blocca WhatsApp, che cazzo facciamo? Come si fa a vivere? C'è anche un omaggio subsonica, c'è un inciso preso dal basso, sì, di Vicio, sì. Com'è il rapporto con gli altri colleghi? Tutti questi rapporti sono creati naturalmente, se mi piacciono i subsonica, ci frequentiamo, quindi è stato naturale. Solo che non si aspettavano da me questa voglia di confrontarmi. Quindi è stata una sorpresa per altri che mi hanno visto, non so, come maestro, eccetera. Dico, ma fammi sentire una cosa. Da queste robe qua, poi è aumentato il mio livello di venditti. Quindi vuol dire che si può confrontarsi con realtà apparentemente molto diverse che invece poi fanno una roba serissima. La cosa bella di questo album è che abbiamo suonato tanti, per cui ti potrei fare un altro disco di cose che poi non sono andate nell'album. Ed è bello perché è stato un'esperienza umana fortissima per me. Però è stata un'esperienza proprio musicale molto. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio, sempre i nostri liberi consigli per il fine settimana. Quanta gente che c'è in regia in questo momento, c'è Andrea, c'è Pietro, c'è Cristi, è arrivato anche Gigi Donelli che sta preparando il GR delle 16, un sacco di gente, e c'è anche qualcuno in studio, ma non ve lo diciamo subito perché prima devo ricordarvi due cose. Una, che potete mandare un messaggio al 349-238-6666 per portarvi a casa una delle coppie di biglietti per i concerti di Enrico Ruggeri. Abbiamo 6 coppie per la data di Milano del 27 aprile, 5 coppie per la data di Torino del 28 aprile. 349-238-6666, mandateci un messaggio col vostro nome e il nome del tour di Enrico Ruggeri e poi il modo per contattarvi. 349-238-6666, soprattutto ve lo dico per la data di Torino, ve lo dico così di nascosto per la data di Torino. Poi un'altra segnalazione. Continua virtualmente la scia del fuori salone del mobile, poi parleremo del fuori salone. Si parla ancora di design a Milano, in questo caso design delle auto e di veicoli autopilotati. Radio 24 vi aspetta con il conduttore di Smart City, lo conoscete, Maurizio Melis, nel Temporary Store Audi di Via Monte Napoleone, per parlare di design e innovazione a 360 gradi e poi anche per divertirci perché mi parlano di cocktail e di DJ set. Per saperne di più basta andare sul nostro sito radio24.it. Ma quindi, a proposito, parliamo di tecnologie con Enrico Pagliarini, che questa volta è in studio. Sì, mi chiedevo, hai finito di fare gli spot? Parlare degli altri. E poi, capito? Volevo sapere una cosa, ma conduttori. Se uno vuole andare al concerto di Ruggeri da solo, sì, visto che vendete le coppie di biglietti, allora uno dice, vincere la coppia e poi uno la butta via? No, uno va e poi si trova una compagnia per la serata. Allora, a proposito di fuori salone, sai che ci chiedono intanto se facciamo partire Periscope? Tra poco facciamo partire anche Periscope. Quanti sono che lo chiedono? Adesso mi ha twittato Miria su, ma per uno no, è no, come Miria il ristorante non vuo, certi non piatti vuole, minimo Enrico. Per due. Vabbè, minimo dai, due. Non è vero, non è vero. Enrico, come sempre hai davanti un po' di ammennicoli, ho sempre un po' paura, però sì. Tu mi hai detto che vuoi parlare di un tema che a me sta molto a cuore, perché io sto per fare l'acquisto, cioè ho bisogno il di un... caso vuole che sì, tu stia per acquistare esatto, uno di questi prodotti. No, ma infatti giusto per caso, perché tu mi hai detto e io ho detto guarda, lo sto proprio comprando. Sì. Allora, c'è una cosa importantissima, la sicurezza dei propri dati. Quando uno dice "Ah, ho perso tutto perché mi hanno rubato", bisogna archiviare è tardi. Tutto, è troppo tardi, pensarci prima. Hard disk esterni, parliamo di hard disk esterni. Allora, Enrico sono, aspetta, sì, perché sì, io sì. ti ho trovato anche una musica ah, tema. C'è la musica per gli hard disk esterni? Allora, gli hard disk fanno rumore, no? Suonano? Sì, sì, sì. E secondo te? Ci sono anche quelli che non fanno rumore. Allora, prendine 8 sì. che fanno rumore e farli, sì. farli suonare. Ah, c'è sempre questo pazzo che fa le musiche. Questo si chiama Mr. Solid Snake 745. Vuoi sentire anche il come è strano, su? Vai. Senti, senti. Sono degli hard disk del 1800 però. E beh, per farli suonare ci vogliono quelli un po' vecchi. La prossima volta la facciamo con i motorini bene. Truccati, no? La gente non sta bene. Vabbè, sì, sì. Hard disk esterni. Allora, sembra un argomento noioso, invece è un argomento importantissimo. Perché sì. quando davvero senti qualcuno che dice "Mi hanno, ho perso tutto", a me sì, viene l'ansia. Esatto, pensate alle fotografie. Quante fotografie uno fa oggi con lo smartphone. Allora, ci sono varie modalità per salvare i dati. Una molto facile, comoda, ma che potrebbe anche ad un certo punto costare qualcosa, perché poi lo spazio non è sufficiente, è il famoso cloud, quindi servizi in rete, però se finisce lo spazio lì siamo limitati. Allora, ci sono poi anche soluzioni con hard disk di rete un po' più complicate per avere in casa la possibilità di salvare i dati. Una soluzione molto facile, una cosa che si attacca al computer, molto molto molto semplice, anche tutto sommato abbastanza economica, è comprare un hard disk esterno. Ce ne sono di vari tagli, io consiglio di partire almeno da un tera, perché oramai questa che è una vuol dimensione dire mille giga. Mille giga, sì, mille giga. Sì, un terabyte, ok? Partiamo da una sessantina di euro, forse anche meno, quindi insomma tutto sommato è una soluzione abbastanza economica. Con 30 euro in più prendo 2 tera, quindi a questo punto... Guarda, sono preparatissima perché ti ho fatto vedere quelli esatto. che sto scegliendo io e sto prendendo uno da 2 tera. Dunque, consigliamo... Tanto accendo Periscope. Hard disk, accendiamo Periscope, visto che sono arrivate qua. Già 3 richieste di Periscope. Eccolo qua, Enrico Pagliarini, live broadcast la prossima volta Periscope. Faccio la barba. Allora, consigliamo anche di comprare hard disk che siano autoalimentati. Che cosa vuol dire? Che io li infilo nella porta USB del computer... E non devo metterci la corrente... Esatto, perché ci sono anche delle soluzioni alimentate con un alimentatore esterno, però io li sconsiglio. Con una connessione USB 3.0, oramai quasi tutti i computer supportano questa connessione, è un po' più veloce, quindi il trasferimento di dati dall'hard disk del computer all'hard disk esterno è più veloce e viceversa. E in questo caso quindi sono anche, oltre che più veloci, più comodi, perché si trasferiscono molti dati velocemente. Tu prima hai fatto riferimento al rumore. Allora, sì, perché quelli che abbiamo sentito suonavano proprio. Sì, effettivamente, allora, gli hard disk classici ancora oggi fanno un po' di rumore. C'è uno o più dischi con delle testine e il disco gira, ok? Però ci sono anche delle soluzioni, ma le sconsiglio soprattutto perché costano molti soldi, che sono i famosi dischi esterni SSD, dischi allo stato solido, fantastici, meravigliosi soprattutto per il computer, quindi quando stanno all'interno del nostro computer, ma come soluzione di disco esterno costano un sacco di soldi in più e quindi li sconsiglio. Okay. Sogniamoci di comprare un tera SSD con 60 euro. Spendiamo 400-500 euro. Sì. Ci sono dei dischi da 250 giga a 120-150 euro, quindi stiamo parlando. Io per la soluzione hard disk esterno lo sconsiglio. Comprate un disco classico, sono molto piccolini, molto leggeri, molto comodi. Se uno vuole portarlo in giro perché ha esigenze non solo di backup, quindi di salvataggio dei dati, e in quel caso lo metti nel cassetto, te lo dimentichi, e poi ogni tanto andrebbe fatto il backup una volta alla settimana, non dico ogni volta, una volta al giorno, che sarebbe dipende anche quanto uno produce, però almeno una volta alla settimana, una volta al mese, salvate i dati, perché se poi perdete tutto per varie ragioni, o perché venite attaccati da qualche pazzo pirata informatico, da qualche virus, o si spacca il computer, bla bla bla, poi non avete più la possibilità di recuperare i dati. Dicevo, se uno spende qualche cosa in più, può anche comprarsi un bel hard disk giallo. Ah, ma infatti la prima domanda che mi hai fatto quando ti ho detto sto comprando l'hard disk, che colore? Perché se uno se lo porta in giro potrebbe piacere, perché gli hard disk, essendo nati nel mondo dell'informatica, quindi un mondo un po' triste da un certo punto di vista, sono tutti grigi, neri, sono tutti questi però, colori. Adesso vi dico cosa mi ha detto Enrico, off record, mi hai detto: ma lo devi portare in giro o lo devi tenere in un cassetto? Esatto, sì, perché uno può avere esigenza, che ne so, di avere dati magari anche molto pesanti, professionali o anche dati personali, avere l'esigenza di portarseli in giro. Allora in quel caso, visto che internet non è sempre disponibile, le connessioni non sono sempre performanti, allora soprattutto se uno ha un'esigenza relativa a dati molto pesanti, la soluzione può essere molto comoda: avere un hard disk esterno nello zainetto, nella borsetta. Uno se l'attacca al computer o anche nel computer di un collega, di un amico, di un parente, e quindi sicuramente questa è una soluzione molto Enrico, molto ti faccio comoda. L'ultima domanda prima di dare la linea al traffico. Qualcuno potrà dire: ma invece di un hard disk esterno io archivio tutto nel cloud. Può essere una soluzione, però diciamo che mediamente per avere un tera, abbiamo fatto l'esempio del tera, il tera è già la dimensione, dipende poi uno cosa fa, perché se uno gira video in alta definizione fa presto a consumare anche il tera, però per avere un tera online, quindi con i servizi cloud, deve pagare qualche cosa, parliamo di, che giusto per dare un'idea, un centinaio di euro all'anno. Esatto, guarda, c'è il nostro Adriano Attus che ci sta scrivendo, sì, su Periscope: Dropbox con un tera 99 euro anno. Sì, esatto. Non ho fatto l'esempio a caso. Sì, certo, quella è un'altra soluzione. Allora, il massimo sarebbe averle tutte e due. Ah, ok. Perché poi se succede qualcosa di internet, magari ho bisogno non se ne esce più. Enrico, dai, ci riaggiorniamo tra poco. Sì, se siete appassionati, molto nerd, abbiamo fatto una puntata di 2024 su i NAS. Ah, bello, poi twittaci il link, che così lo andiamo a recuperare. Sono gli hard disk di rete da tenere in casa, cosa un po' più complicata. Adesso siamo capaci tutti, quindi non è. Certo. Però e dopo voglio capire difficile. Perché hai lì un po' di cose, un po' di aggeggi, sì. E poi ci fai capire che cosa abbiamo. C'è qualcuno che su Periscope dice: perché non mi faccio vedere io? Perché insomma è già tanto che io riesco a fare. Guardate cosa sta facendo per chi ci sta seguendo su Periscope e non ci sta ascoltando alla radio. Sta guardando in giro col suo smartphone. Lo scopriremo però tra poco, perché sono le 15:45. Enrico, diamo la linea alla viabilità. Ci ritroviamo tra pochissimo. A tra poco, dunque. Strade in diretta. Bentrovati a tutti voi. Al nord, per un incidente, troviamo oltre un chilometro di coda sulla tangenziale sud di Torino, tra la statale 20 e Bauducchi verso Piacenza. Per lavori si registrano rallentamenti con code di circa 4 chilometri sulla A4 Milano-Venezia, tra Desenzano e Brescia Est verso Milano, e per il traffico intenso sul tratto milanese dell'A4 in prossimità di Sesto San Giovanni verso Venezia. A causa di un trasferimento di un trasporto eccezionale si procede a rilento sulla 1 Milano-Napoli, tra Ronco Bilaccio e Barberino in direzione Napoli. Maggiori informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi. Il sabato del villaggio. The Hard Disk Orchestra. Ti piacciono gli hard disk che suonano, sì, eh? Sì, sì. Senti qua cosa suonano questi? Beh, è proprio una roba da nerd. Prima James Bond, adesso Ghostbusters, bellissimo. Allora, caro Enrico, prima di parlare delle app della settimana in un minuto e mezzo come al solito, Beatrice ci chiede al 349-238-6666 perché sconsiglia hard disk con alimentazione esterna. Perché sono una scocciatura. L'hai detto diverso prima, hai usato un'altra espressione. Però perché io sono per la radio elegante. Per la radio pulita. Sì. Enrico, cosa ci fai con lo smartphone in mano? Allora, anzi, riaccendiamo Periscope. Ma cosa ecco, facciamo a proposito vedere? Di Periscope, di Meerkat, che è l'altra app che sfrutta i contatti Twitter per trasmettere video in diretta, quindi uno può aprire il proprio smartphone, aprire questa applicazione e trasmettere. Allora, Tiscali, che è molto attiva sul lato social, ha diciamo, rilanciato, fatto un refresh di Streamago. Okay. Allora, Streamago, adesso io sto facendo streaming video in diretta e se uno va sulla mia pagina Facebook... Cioè io streamo Facebook, te, tu streami me? Sì, faccio, esatto, stiamo streamando. Veramente dei nerd. Cioè ci stiamo trasmettendo live video, dal video dal vivo, per dirlo un po' in italiano. Facendo la radio. No, questo per dire che stiamo parlando del fenomeno Periscope da un po' di tempo, quello si rivolge all'utenza Twitter, ma visto che sappiamo che sono molti di più gli utenti di Facebook, Streamago è una soluzione, un'app, uno l'attiva, si connette a Facebook e si vede, Christian, si vede, vedi? Ah, ecco perché c'è il nostro Christian Goldoni in redazione che sta guardando su Facebook. Solo che se io apro Facebook poi non posso usare Periscope, vabbè, insomma un delirio, ragazzi. Allora, volevo consigliare in 30 secondi, sì? Se uno va all'estero, se uno è curioso di sapere quanto vale il cambio per vari motivi, ce ne sono moltissime di applicazioni. Io uso, tra le tante che ho provato, XE, facilissima, XE. Quindi ci sono tutti i cambi, è molto facile, molto semplice, sono aggiornati al minuto. Straordinario. Enrico, allora, noi adesso parliamo di cinema, quindi siccome sei molto appassionato anche tu rimani. Rimango, perché ad ascoltare. C'è il nostro Franco D'Assisti. Io adesso con Periscope mi faccio vedere anch'io, perché tutti dicono mostri i pagliarini, non ti fai vedere tu, anche se sono struccata. No, ma si può anche girare con l'altra videocamera. Se vuoi fare dei gesti con le mani. Va bene, dai, adesso è il momento del cinema. Se ne ha bisogno non si deve preoccupare, l'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa. Sì, ma non serve, perché ho deciso e insomma non cambio idea. Mamma, dormi. She was just sleeping somewhere. E non potevamo non parlare di questo debutto al cinema, era attesissimo e ora che sappiamo il programma di Cannes ancora più atteso, mia madre di Nanni Moretti. Abbiamo in studio il nostro Franco D'Assisti, ciao Franco. Ciao, ciao Marta. Faccio una domanda retorica, bisogna andare a vedere mia madre di Nanni Moretti al cinema? Beh, diciamo che intanto i film di Nanni Moretti si vanno a vedere a prescindere, quindi una questione di religione. Poi ci sono pareri discordi, anche se comunque il parere prevalente, lo devo dire, anche se magari in questo caso non è totalmente il mio, è molto molto positivo sul film di Nanni Moretti, sta avendo grande successo di critica, il pubblico l'ha approcciato bene, il primo giorno di programmazione già era secondo dopo Fast and Furious, chissà che battuta farebbe Moretti su questa cosa, e quindi, come dire, il film c'è tutto, è un film secondo me molto interessante, anche se preferisco il Moretti che trova un punto di vista un po' meno, come dire, imparziale rispetto alle cose, un po' meno ecumenico, universale, e magari le racconta con una chiave un pochino più personale, cosa che lui ci ha abituato a fare. Pensate solo al Papa di Michel Piccoli, solo per stare agli ultimi tempi, no? Però insomma è un film che ha dentro tante cose importanti, tante cose su cui passiamo tutti, da cui passiamo tutti, la perdita di un genitore, lo spaesamento di quando arriviamo a capire che sopra il nostro tetto non c'è più nessuno, e sì, quindi siamo noi adesso, no? I capostipite della nostra generazione. È un film, secondo me, insomma, sto dicendo tutte cose positive anch'io, vedi, però appunto la mia unica così perplessità, ma forse ci vuole tempo per un film del genere anche per farlo depositare, è quanto ci rimarrà di questo tipo di narrazione cinematografica, cioè proprio tutto cinematografico in questo caso il tema. Staremo a vedere, il film sarà a Cannes con altri due film italiani importanti, quello di Garrone e quello di Sorrentino, Il racconto dei racconti e La giovinezza. Penso che un triplete così di questo livello l'Italia oggi non possa esprimerlo se non con questi tre artisti, sono i più amati in Francia e quindi insomma le cose si mettono bene. Pensa che sarà un bel weekend quello del 23-24 maggio, perché c'è anche l'Eurovision, abbiamo il volo, un altro trio, ecco, che va magari come conquistare... quando hanno vinto Rossi e la Ferrari insieme, esatto, potrebbe essere, esatto. Speriamo che sia così, sarà un grande così weekend. Quindi mia madre da vedere Black Sea. Black Sea è una bella esperienza, perché è un film di quelli che si facevano negli anni 80-90. e oggi non se ne fanno più, nel senso che è un film che intanto ha bisogno di capitali, perché sottomarini, abissi, un attore importante come Jude Law, che insomma il suo cachet bisogna pagarglielo, un regista come Kevin MacDonald, l'ultimo re di Scozia, ricorderete, altri film importanti, per raccontare una storia di genere, cioè quella del recupero di un carico d'oro sommerso in un sommergibile tedesco sul fondo del Mar Nero dal 1941. Lo definirei proprio un film d'altri tempi, però particolarmente riuscito. E Jude Law gigioneggia un po' meno del solito, e quindi bene o male. A me piace quando Jude Law gigioneggia. Lo so, ma mica sei l'unica. credo di non essere proprio l'unica. No. Però, ragazzi, non è proprio il loro film. Cosa portare a vedere i ragazzi? Ma guarda, se i ragazzi sono piccoli o medi, diciamo così, proprio intesi come scuole medie, secondo me le vacanze del piccolo Nicolà cascano a fagiolo anche per i genitori, perché è un film senza pretese, senza impegno, no? Ricorderete appunto il piccolo Nicolà e i suoi genitori. In Francia questo personaggio è un personaggio anche letterario molto forte, che è un po' pel di carota, un po' Gian Burrasca, da noi forse un po' meno sentito come personaggio letterario, però insomma c'è anche una certa universalità del messaggio. È un film, non è un film di trama, non è un film di racconto. Si prende questo ragazzino, lo si porta in una spiaggia della Francia Atlantica, in un posto incantevole, dove le famiglie di un paese che sta rivedendo, rinfastendo rinverdendo i suoi fasti dopo la seconda guerra mondiale, vuole trovare un benessere borghese. Tanti piccoli sketch che però ti fanno rimanere con quel sorriso accennato sulle labbra, che non fa mai male quando vai al cinema. E poi ultimamente tanta Francia al cinema, tantissime. Ma queste cose loro le sanno fare veramente bene. Sì, quindi sì. Poi magari non sono mai diverse dalla volta prima, però sono sempre giuste, non sono mai sbagliate. E questo chiaramente aiuta il pubblico a donarsi a questi film. Franco, con te l'appuntamento dopo il GR delle 18 alla Rosa Purpurea, immagino ovviamente tanto Cannes, e poi? Assolutamente Cannes, i film in uscita, i nostri giochi, i film sulla liberazione, perché stiamo arrivando in fondo al nostro percorso con Una Mattina, la nostra iniziativa che appunto fa premiare il film della Rosa Purpurea per il 25 aprile, ma anche un grande attore di teatro, uno dei più grandi attori di teatro della prosa italiana contemporanea, Glauco Mauri, che è al cinema, al Teatro Carcano di Milano con Una pura formalità di Giuseppe Tornatore, quindi un grande film di Tornatore che era molto teatrale, perché si svolgeva tutto in un'unità di luogo, in una stanza cupa, che viene trasferito sul palcoscenico con uno dei più grandi attori del nostro teatro, che sarà con noi a raccontarci questa esperienza. Grazie Franco, quindi dopo le 18 con la Rosa Purpurea. Ci sentiamo. Sono le 16. GR 24, il sole 24 ore. Scarcerato il papà fuggito col neonato, la moglie lo perdona, celebrato dopo l'arresto Albacete, processo per direttissima. Sciopero della scuola 5 maggio contro la riforma Giannini, ministro difende, il DDL dice una rivoluzione culturale. Calcio sotto assedio ultra da Cagliari a Varese, Roma Zeman scioccati per i danni allo stadio, salta intanto Varese Avellino. È stato scarcerato Enzo Costanza, il papà torinese fuggito in Spagna portando via il figlio di 2 settimane. Il tribunale di Albacete, dove stamane si è tenuto il processo per direttissima conseguente all'arresto per sottrazione di minore, ha ritenuto che non ci siano gli estremi per trattenerlo in carcere. Rientrerà in Italia con i familiari, ma non viaggerà col figlio, la moglie Stefania, che intanto lo ha perdonato definendolo comunque un buon padre. Sciopero della scuola il 5 maggio contro la riforma del governo, lo hanno proclamato i sindacati durante la manifestazione romana di questa mattina. In un tweet la replica del ministro dell'istruzione Giannini, che dice: manifesto rispetto per chi sciopera, ma stiamo cercando di costruire il consenso sulla buona scuola, e aggiunge: è una riforma culturale rivoluzionaria. Il calcio dunque sotto assedio degli ultra in tutta Italia, almeno 4 le emergenze in poche ore, l'aggressione ai calciatori del Cagliari in ritiro, le minacce di disordine a margine di Roma-Atalanta dopo la chiusura di parte della curva sud, la tensione a Terni prima del derby con il Perugia, l'annullamento e poi il posticipo a domani di Varese-Avellino, che appunto doveva essere giocata nel pomeriggio dopo che nella notte i vandali hanno danneggiato lo stadio della squadra lombarda, ultima in classifica. L'Expo può essere una grande, anzi una grandissima opportunità. Puntiamo a vendere 20 milioni di biglietti, così il Premier Renzi ha Expo Idee questa mattina a Pompei, sottolineando che la manifestazione rappresenta una grandissima occasione per cambiare impostazione e approccio dell'Italia, per tornare a fare l'Italia, ha detto, e se in questi anni l'Italia ha perso il treno della globalizzazione, non c'è motivo per non mettersi a correre. E ancora, la nostra risposta come governo è molto chiara, gli impegni assunti si mantengono, e qui è il caso Whirlpool Indesit, di cui si è parlato ancora stamattina in occasione della visita appunto del Presidente del Consiglio a Pompei. I lavoratori l'attendevano, questa la risposta: siccome Whirlpool ha preso Indesit, che aveva un tipo di piano sul versante dell'occupazione, lo deve mantenere. Così ha detto il Ministro del Lavoro Poletti, che ha ribadito di non sapere se il tesoretto nel DEF sarà utilizzato a favore degli esodati, e si è detto convinto che il governo troverà la quadra sulle riforme. Bene, con questo è tutto per questa breve edizione, la prossima naturalmente alle 17. Il sabato del villaggio. Rieccoci con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, i nostri liberi consigli per il fine settimana tra musica, TV, serie TV, cinema, consumi, tecnologie, libri, insomma tutto. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per contattarci, due mezzi molto molto rapidi: Twitter, il mio account @MartaCagnola, l'hashtag #CancellettoISDV come le iniziali di Il Sabato del Villaggio. E poi c'è il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. Intanto ringrazio Carmen di Cuneo, abbiamo parlato di pubblicità, che ci scrive: siccome suo marito dice detesto questi film che interrompono la mia pubblicità, un altro publivoro, quindi non siamo soli, ce ne sono tanti. Ma il 349-238-6666 vi serve anche per aggiudicarvi i biglietti del prossimo tour di Enrico Ruggeri. Abbiamo 6 coppie per la data di Milano del 27 aprile, 5 per la data di Torino del 28 aprile. Basta mandare un SMS al 349-238-6666 col vostro nome e il nome del tour di Enrico Ruggeri, e poi il vostro numero, insomma come contattarvi. 349-238-6666. Aspettiamo ancora i vostri SMS. Ma cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Beh, arriverà un ospite a trovarci, una delle più grandi cantautrici italiane, Paola Turci. Il suo disco è davvero sorprendente. I libri, questa volta un campione delle classifiche e una nuova tendenza singolarissima: i libri da colorare per i grandi, state a sentire. Poi l'appuntamento con le nuove tendenze, le mete perfette per il weekend, la passione per i cani. Ma prima, ma come ci vestiamo? Ma dico, mamme e figlie, meno male che c'è chi ci dà una mano. Cosa succede quando una mamma si veste come un adolescente? Sono una fan delle paillette, fa più luce lei che il lampadario. No! Il suo look per me è sciatto. Qui serve un makeover serio. Giorgia, è arrivato il momento di metterci al lavoro. Se mamma e figlia non la pensano allo stesso modo sul look, giro lo specchio. Ci pensa Carla a mettere tutti d'accordo a colpi di stile. Mamma sei too much. Ci pensa Carla, e ovviamente è Carla Gozzi, che è la maestra assoluta dello stile. Mamma sei too much, il sabato pomeriggio su Real Time. E io vi dico che mentre stavo facendo la scaletta del sabato del villaggio mi sono distratta, quasi non facevo la scaletta perché sono rimasta lì a guardare le puntate di oggi, mi sono divertita tantissimo. E abbiamo al telefono proprio lei, la leggendaria Carla Gozzi. Buongiorno Carla. Ciao Marta, buongiorno a tutti. Che meraviglia, che, guarda, meno male che divertite, ma tantissimo, ho riso come una pazza quando hai tirato fuori i jeans paiettati della madre urlando: ma questi sono sottovuoto, perché erano un po' strettini. Allora, mamme un po' too much, come dice il titolo, cioè un po' eccessive, e figlie fin troppo dimesse. Quindi tu questa volta dai consigli in coppia. Com'è stato avere a che fare con mamme e figlie? Beh, dai, molto interessante, anche perché sembra un argomento superficiale il look, ma in realtà veramente crea dei litigi, dei battibecchi, oppure mette tutto a tacere, no? E quindi questo è stato molto divertente per me, anche perché tutta questa relazione le ho conosciute bene durante appunto la puntata, la trasmissione, e devo dire, insomma, mi sono molto divertita anch'io, e però alla fine, sai, diventano bellissime, perché diciamoci la verità, no? Col makeover cambiano completamente e si avvicinano anche molto proprio mamma e figlia. Io ho visto questa signora che era veramente un po' panterona, diventata una signora chicchissima. E la ragazza, sì. E la ragazza che era un po' soverchiata da questa mamma fin troppo aggressiva, sì. E le hai tirato fuori l'anima. Quindi a volte il vestito serve anche a tirare fuori qualcosa di noi. Beh, ci aiuta, è un po' come io immagino, diciamo, un semino, no? Che si inserisce in un terreno già fertile, ovviamente, e questo semino comincia a buttare, no? A dare qualche segno. È un po' questo, è un po' questo. Carla, tu quando devi parlare con una mamma e con una figlia, come ti è capitato in questa avventura di Mamma Sei Too Much, che sensazione ti ha dato? È un rapporto che poi va davvero al di là delle apparenze, sei entrata un po' nelle dinamiche delle famiglie. Sì, ma guarda, alla fine ho messo un po' d'ordine anche tra di loro, nel senso che ho spiegato... cosa deve essere la mamma, no? Almeno io racconto quella che è la mia mamma come ideale. La mia mamma ideale è un'icona di stile, è un mentore, è una figura di riferimento alla quale noi figlie vogliamo ovviamente aspirare, no? Questa è come la idealizziamo. E quindi ho cercato di spiegare a queste mamme come in realtà le figlie vorrebbero vedere le proprie mamme. È stato un po' faticoso, perché ti dirò che le più, quelle che rimangono agguerrite, sono proprio le mamme, che difficilmente subito mollano lo scettro e la presa. Poi sono felicissime, ma in un primo momento, insomma, non è proprio semplicissimo, bisogna proprio convincerle. Devo dire che la cosa che mi ha commosso è che poi tutte e due si sono messe un po' a piangere, perché davvero hanno visto la mamma e la figlia come si sarebbero volute vedere, loro stesse e l'altra. Esatto, guarda, è un momento commovente, ti dirò, anche per me tutte le volte che registriamo, appunto, che viviamo in primis questo momento, sì, un po' l'occhietto si, come dire, no? Lacrimuccia sgorga un po' in tutto il team, quindi sì, è un momento magico quello. Che bello. Carla, sai che il sabato pomeriggio i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici spesso ci ascoltano dalla macchina perché stanno girando magari per andare a fare shopping. Allora ti chiedo un consiglio: se avessimo una mamma e una figlia in macchina insieme con l'autoradio accesa sul sabato del villaggio e volessero andare a farsi un regalo, un po' di shopping, un acquisto da fare oggi per la mamma e un acquisto da fare oggi per la figlia, cosa ci consigli? Allora, per la mamma, guarda, c'è anche un capo icona di questa primavera estate che tutte le donne dovrebbero avere, no? Che è la blusa in seta o materiali, diciamo, o dintorni della seta, quindi potrebbero essere anche viscose, comunque materiali, diciamo, leggeri e lucidi, e soprattutto la blusa è una camicia morbida, quindi niente cotone, niente materiali, diciamo, pieni, ma invece tessuti leggerissimi, molto morbida. Questo è il primo capo icona. Poi per la figlia, tuta, salopette e jumpsuit, quindi la tuta che può essere lunga, che può essere un po' da sera, che può essere invece da giorno, perché la tuta in questo caso è anche qui un pezzo icona. Che meraviglia, mi hai fatto venire voglia di fare shopping, quindi dopo le 18, quando finisce RadioTube, vado a comprarmi sia l'una che l'altra. brava. Allora, l'appuntamento con Mamma Sei Too Much è il sabato pomeriggio. Io vi ricordo che però ci sono anche i video sul sito di Real Time, quindi non potete proprio perdervelo. Che meraviglia. Carla, io mi sono divertita tanto e davvero spero che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si divertano tanto quanto mi sono divertita io, che quasi non andavo in onda per guardarmi la puntata di oggi. Ma davvero, guarda, sono indisciplinata. Sono felice. Grazie Carla per essere stata con noi. A presto, a Carla Gozzi. Buon pomeriggio. Grazie Carla, che bello, mi piacerebbe averla anche in radio, ma poi ho l'ansia, chissà se mi vesto abbastanza bene per lei, mamma mia. Vabbè, allora, noi tra poco abbiamo i nostri appuntamenti, prima con i libri, poi con i consumi, poi con una grande ospite che verrà a trovarci, ma tra poco, perché ora è il momento di dare la linea alla viabilità. Il sabato del villaggio. Allora, questo è davvero il momento dei libri, prepariamoci perché già vedo qualcosa di interessante. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Mm-hmm. canzone straordinaria di Van Morrison dedicata alle ragazze con gli occhi scuri, e qui siamo in due con gli occhi scuri, siamo io e Alessandra Tedesco. No, veramente, ciao, io ho gli occhi chiari, però vabbè, facciamo un mix, che ti devo dire, se vuoi ti dico che ho gli occhi gli occhi grigio scuro. Va bene, grigio scuro, una cosa avevo, gli occhi chiari me la tolgono anche il sabato pomeriggio, va sono bene. Belli, sono belli gli occhi di Alessandra Tedesco, c'ha un grigio profondo, allora non si vede. Adesso facciamo la foto. No, dobbiamo twittare un'altra cosa. Non posso far vedere adesso gli occhi di Alessandra Tedesco. Dobbiamo twittare un'altra immagine. La twittiamo dopo, però, perché vi abbiamo preparato una sorpresa. Alessandra, noi con gli occhi profondi, con questa canzone di Van Morrison. Indovina di cosa ti parlo? Non lo so, di Van Morrison. No, di qualcuno che ha recuperato queste vecchie canzoni. Sì, allora c'è un libro di cui si sta parlando tantissimo che si intitola Revival, quindi già dal titolo pensi, non so, revival musicale, la riscoperta di vecchie canzoni, soprattutto del rock, ma non è niente di così allegro e carino, perché l'autore di questo revival è il maestro dell'horror Stephen King. Ah, vabbè, quindi una roba di paura, cioè una roba di paura. Io ho visto la playlist delle canzoni che cita, ho detto sta a vedere che ha cambiato genere. Cioè tutto il meglio del rock anni 60-70. Esattamente, no. Lui l'ha messo in questo romanzo, sono canzoni che lui cita in questo revival. Ricordiamo che in Italia il romanzo è stato pubblicato da Sperling e Kupfer con la traduzione di Giovanni Arduino. Allora, Stephen King, come dire, lo dicevamo prima, è il re dell'horror, è uno degli scrittori che ha venduto di più al mondo. Pensa che con tutti i suoi libri pubblicati ha venduto circa 500 milioni di copie in tutto il mondo. E anche questo libro, appena è uscito in Italia, Revival, la prima settimana subito è schizzato prima in classifica, adesso continua a mantenere ottime posizioni, perché quando si parla di Stephen King naturalmente tutti i fan corrono a comprarlo, a leggerlo a prescindere, e poi magari si riescono a conquistare anche nuovi lettori. Lo comprano a prescindere e poi aspettano di avere del tempo libero, perché lo vedo bello, e sono corposo, 600, guarda, adesso sempre. Il famoso libro alla radio, adesso lo facciamo ascoltare. Esatto. Sono 468 pagine. Sai cosa faremo prima o poi? Porteremo una bilancia e diremo quanti grammi. Guarda, ti posso dire che si legge in 7-8 ore, perché comunque sì, abbastanza okay. Ormai si ragiona anche in ore, in tempo dedicato ai libri. Quante ore? 7-8 ore. Parliamo però un pochino della trama. È un romanzo che ha a che vedere anche con la religione. È un periodo in cui vanno di moda questi libri religiosi, sì, chiamiamoli. Avevi già parlato di Carrère. Il regno di Carrère. Esempio, la storia del cristianesimo. In questo caso c'è un ragazzino, seguiamo la vita. Allora, siamo nell'America degli anni 60, c'è un bambino che si chiama Jamie, ha 6 anni, e ha un forte legame con il nuovo reverendo del suo paese, che si chiama Charles Jacobs. Poi succede qualcosa, tragedia con 3G, ovvio. E ritroviamo questo Jamie 30 anni dopo. Perché c'entra la musica? Perché Jamie fa il chitarrista, e quindi da qui tutte le canzoni rock anche che sono nella cosiddetta playlist, ed è particolarmente dipendente dalla droga. Per questo, questo revival è considerato il primo romanzo realmente autobiografico di Stephen King, perché anche lui da giovane suona tuttora, credo. Anche lui è stato dipendente, l'ha dichiarato spesso, sia dall'alcol che dalla cocaina, e anche lui aveva una relazione speciale con un pastore metodista. Ecco cosa c'entra la religione in tutto questo, perché ecco. C'è questo reverendo che ha una grande, non vi posso spiegare i particolari, se no vi tolgo, come dire, no, sono i fan di Stephen King. Facciamo così, inauguriamo una nuova stagione. No, non facciamo spoiler. Ti leggo giusto la prima frase. In un certo senso, la nostra vita è veramente un film. L'ultima parola è madre. Non vuol dire nulla, madre. Però. In questo libro se ne è parlato tantissimo, si continua a parlarne, certo. C'è chi l'ha, come dire, osannato, per esempio, un po' di articoli qua, la lettura dal Corriere della Sera, Antonio Dorrico, nel nuovo Stephen King ci sono le più belle 100 pagine di fila da molto tempo a questa parte. Ah, però. Su Repubblica, Carlo Verdelli ha scritto, forse è l'ora di prendere di peso Stephen King con tutto il suo 1,90 m di altezza e quel sorriso sottile come una lama e trasportarlo fra i grandi della letteratura moderna. Ma niente di meno. E invece Alessandro Davenia, lo scrittore, l'ha un po' bastonato. Sì, dice che, come dire, c'è troppa vena nostalgica, si è un po', come dire, accomodato sui suoi 68 anni Stephen King. Ah. Non ti dico come si sono arrabbiati i fan di King. Sì, perché, tutti sotto casa di Davenia. Sì. Tu a chi lo consigli? Beh, ovviamente ai fan di Stephen King. Allora, i fan di Stephen King sicuramente. L'hanno comprato comunque, per forza. Diciamo che questo revival di Stephen King non è horror, non è splatter. In realtà genera un'inquietudine, una paura interiore, soprattutto per chi riflette su che cosa c'è dopo la morte. Non vi dico nient'altro. Quindi è un romanzo consigliato a chi ha voglia di esplorare senza paura i confini dell'esistenza. Quindi non lo leggerei la sera, diciamo così, prima di andare a dormire. Forse eviterei. Facciamo così. Alessandra, abbiamo cominciato parlando di colori. Andiamo a colorare. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma si piove due segni di birotti danno un bello. Allora, il sole giallo, i segni di birra, insomma stiamo disegnando, anzi stiamo colorando, Alessandra. Che bello, come mi sono divertita, come una matta, perché Alessandra Tedesco mi ha parlato di una tendenza della quale io, confesso, non sapevo nulla. È una nuova tendenza nel mondo dell'editoria dei libri, stanno avendo un successo strepitoso, sono i libri da colorare per adulti, non quelli per bambini, quelli per adulti. La regina di questo genere è una scozzese, Joanna Bessford, ha pubblicato Il giardino segreto e La foresta incantata. Pensa che con questi due libri da colorare ha venduto 2 milioni di copie, sono pubblicati anche in Italia da Gallucci, e te ne volevo parlare già la scorsa settimana, ma non ho potuto perché ho scoperto che nelle librerie italiane erano praticamente esauriti, quindi li hanno ristampati e adesso ci sono nuovamente nelle librerie. Questi libri appunto di Joanna Bessford sono da colorare. Io ti ho portato una cosa, ma confessiamolo, abbiamo fatto una sfida. Sì. Abbiamo già colorato un disegno e quindi ora su Twitter, chiocciola Marta Cagnola il mio account, chiocciola Ale Teddina quello di Alessandra Tedesco, vedrete i risultati. Vi mostriamo la differenza del nostro impegno nel colorare il libro per adulti. Non significa che ci sono immagini strane, no, significa ci sono semplicemente tutte immagini che di natura, foglie, sì, fiori. Tu hai scelto un alberello facile, sì, tipo proprio, sì, impressionista. Sì, io ho invece un teschio fiorito. Vabbè, un teschio fiorito, non possiamo mostrarvelo alla radio. Adesso vi twittiamo la foto e così vedete chi delle due si è rilassata davvero colorando. Sì, perché il dicono libro. Che questi libri rilassano, lasciamo perdere, io mi sono innervosita parecchio. Alessandra è innervosita, a un certo punto ha fatto degli scarabocchi, vabbè, non importa. Alessandra, prima di chiudere il nostro appuntamento però con i libri qui al Sabato del Villaggio, tu avevi fatto una promessa, ti inchiodo alla tua promessa, hai riordinato casa? Sì, mi sono fatta prendere dalla mania di questo libro di cui abbiamo già parlato, perché ne parlano tutti, Il magico potere del riordino di Marie Kondo, giapponese, pubblicato in Italia da Vallardi, il metodo appunto giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. Sì, ho messo in ordine, mi è piaciuto molto mettere in ordine per generi, cioè ho iniziato da le borse, poi le carte, tutti i documenti li ho riordinati, i libri mi rifiuto, perché lei dice a un certo punto i libri che hai già letto li puoi buttare, tanto no, non li rileggerai, no, no, è pazza, no, no. Ecco, è pazza, assolutamente pazza. Pazza. È un po' troppo giapponese in questo. Ho trovato forse utile come conservare i collan, perché lei spiega come arrotolarli e metterli in verticale. Ci sono dei consigli sicuramente buoni e diciamo mi ha fatto bene per una disordinata cronica. Però adesso sta arrivando un ma, sento che sta arrivando, sì, un ma. Sì, sta arrivando un ma, perché mi ha fatto così bene che proprio 2 sere fa, l'ho scritto anche su Facebook, quindi è pubblico, ero presa da questa mania dell'ordine e per errore ho cancellato tutte le mail inviate e le ho cancellate anche dal cestino. Certo, hai fatto l'ordine per bene. Esattamente, questa mania dell'ordine mi ha preso un po' troppo. Poco alla volta, prendere i suggerimenti di Marie Kondo senza esagerare, sono molto contenta. Alessandra, invece io esagererei sempre col cacciatore di libri, anche la mattina presto. Cacciatore di libri alle 6:30 per chi si sveglia presto il sabato e alle 22 la sera. Questa sera parlo di un romanzo gotico. Straordinario, grazie Alessandra, a presto. E anche il podcast del cacciatore di libri su radio24.it. A presto Alessandra. Il sabato del villaggio. E sempre i vostri messaggi SMS al 349-238-6666, non solo per tenermi compagnia, ma anche per, ve lo dico per l'ultima volta, le coppie di biglietti del tour di Enrico Ruggeri. 6 coppie per la data di Milano, Teatro Nazionale 27 aprile, 5 coppie per la data di Torino, Le Roi 28 aprile. Io ve lo dico a bassa voce, soprattutto per Torino. Magari mandateci un messaggio al 349-238-6666 dicendoci qual è la tappa che preferite, qual è il nome del tour di Enrico Ruggeri e poi il vostro nome, così vi contattiamo per sapere se siete stati i primi e i più fortunati ad aggiudicarvi queste coppie di biglietti del tour di Enrico Ruggeri. Infatti c'è Emanuele Dalodi che scrive I love Ruggeri, Super Radio 24, Sabato del Villaggio. Grazie Emanuele, poi devo ringraziare moltissimo anche Maria da Napoli che scrive brava Alessandra, la nostra Alessandra Tedesco, adesso glielo dico, finalmente Stephen King, dopo tanti SMS le mie richieste sono state esaudite. Intanto noi le abbiamo mandate le foto, cioè io l'ho twittata la foto. Alessandra, abbia anche tu il coraggio di twittare la tua foto con il libro da colorare, i libri per adulti, non nel senso di immagini strane, ve l'abbiamo detto, solo semplicemente i libri da colorare come quelli dei bambini ma dedicati ai grandi, un antistress bellissimo. Io l'ho twittata dal mio account @MartaCagnola, l'hashtag è sempre ISDV. Come sempre, ancora mezz'ora del Sabato del Villaggio, poi daremo la linea al nostro RadioTube, ci daremo la linea con RadioTube. Il Sabato del Villaggio, come sapete, è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. In argomento viaggi, evidentemente, quindi nel nostro spazio dedicato ai consumi delle nuove tendenze ci tocca viaggiare questo fine settimana. Dove andiamo, Maria Luisa? Buongiorno Maria Luisa Buon Pezzali. Pomeriggio Marta, ciao, un saluto a tutti. Ebbene sì, perché lo sappiamo, si avvicinano i cosiddetti ponti primaverili e quel periodo dell'anno in cui, non so tu Marta, ma si ha voglia di partire praticamente ogni weekend. Sì, diciamo che io posso partire il sabato sera perché il sabato sono qui, però cerco di recuperare. Esatto, recuperiamo il lunedì. Sì. Parliamo di turismo low cost, lo spunto ci arriva da una ricerca, una bella ricerca molto interessante firmata da eDreams, che è l'agenzia di viaggi online, ha ideato una vera e propria guida low cost, una sorta di manuale di sopravvivenza urbana, così l'ha definito, per le vacanze in 9 tra le principali mete europee, da Budapest a Lisbona, passando per Londra, Barcellona, Amsterdam, Berlino, ce le facciamo dire tutte adesso, da Angelo Ghigliano che è il country manager di eDreams Italia, dovrebbe essere in collegamento. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, dal wifi libero ai musei gratis, voi avete tracciato la mappa per la vacanza low cost, è così? Noi abbiamo valutato molte mete, tra cui sono risultate le 9 città più convenienti per viaggiare, che sono Londra, Lisbona, Madrid, Parigi, Budapest, Roma, Berlino, Amsterdam e Barcellona, e le città sono state valutate in funzione degli elementi tipici dei viaggi, quindi la possibilità di visitare gratuitamente i musei, il costo del biglietto della metro per verificare quanto costa spostarsi, il costo medio di una stanza di hotel, se esiste nelle città un wifi gratuito, e il costo anche del cibo, quindi ad esempio di una birra media piuttosto che di un caffè, il costo di nuovo per spostarsi, la benzina, oppure il costo di un Big Mac o il costo di un chilometro di taxi. Quindi dai 36 euro della stanza di Budapest ai 92 di Amsterdam e Londra, che sono le più care, se non sbaglio. Esattamente. Un biglietto del metro, per esempio, costa 1,1 euro a Lisbona, la tazzina di caffè più conveniente è 80 centesimi, mentre quella più costosa, ad esempio, è di Londra con circa 3 euro. Posto che il caffè va bevuto a questo punto solo in Italia, perché li stavo confrontando e i prezzi sono alti dappertutto, quindi meglio aspettare di essere a Roma dove il caffè costa meno e poi forse anche più buono. Che cosa vi ha stupito? Io sono stato stupito soprattutto da Lisbona e da Budapest, perché sono due città che sicuramente offrono molto a un prezzo veramente vantaggioso. Si trova online la guida? Sì, si trova online sul nostro sito ed è appunto www.idris.it, vacanze-low-cost, dove potete trovare comodamente tutte le informazioni che hanno riguardato questa indagine. Io vado subito a vederlo, anche perché non sono mai stata a Budapest e quindi, ma mi informo un po', così cerco anche di risparmiare. Grazie al country manager iDreams Italia, Angelo Ghigliano, che è stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. Buon pomeriggio, arrivederci. Arrivederci. Buon pomeriggio, grazie. Luisa, a proposito di strategie per risparmiare, è il momento dei nostri consigli delle strategie anticrisi. Eh sì, e oggi affrontiamo un capitolo di spesa che sta diventando sempre più importante nella shopping bag di molti di noi, chiamiamola così. Parliamo di animali domestici, di tutto quello che serve per curarli, mantenerli, coccolarli. I numeri del settore, Marta, sono veramente numeri impressionanti. È un settore che batte la crisi, si dice, perché non ne risente affatto. Ci facciamo raccontare tutto dalla direttrice di Markup Egidio Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao Cristina. Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene noi e anche i nostri animali. Cristina, cosa ci puoi consigliare allora sotto questo punto di vista? Partiamo dal cane. Allora, ho scoperto, grazie anche all'aiuto di questo gruppo di ricercatori, che abbiamo cani con caratteristiche diverse, che ovviamente molto dipendono dal padrone. C'è il cane presenzialista, che di fatto è quello che va agli aperitivi, che va alle aperture delle mostre ed è quello che va a fare shopping. In linea di massima sta in borsetta, perché è difficile portarsi un labrador proprio ovunque, però vediamo anche dei cani di media taglia. Sono cani ovviamente più cittadini, che, come dire, il moto lo fanno, ma lo fanno per le vie della moda. Al loro opposto abbiamo il pantofolaio, che già la definizione ce lo dice, è proprio il padrone della casa, quello che dorme nel letto con i padroni, quello che, dico, che mangia a tavola perché non ce la fa ma mangia lì vicino, quello che si becca un sacco di regali e che fa Natale con la famiglia. Poi abbiamo il cane indipendente, che è quello classico, storico, di solito sono cani da guardia che hanno, come dire, una funzione animale all'interno della famiglia e vivono solitamente in spazi un pochino più aperti, eccetera. Non sono particolarmente sportivi, però diciamo che se la cavano da sole inseguendo qualche gatto e probabilmente ogni tanto facendo qualche buca in giardino. Poi c'è il cane sportivo, che anche in questo caso invece riflette molto il proprio proprietario, e infatti va a correre col padrone, molto curato, è atletico, non ha la pancetta, attentissimo a quanto mangia. I cani indipendenti sono in linea di massima non particolarmente di razza, ci sono anche quelli di razza ma possono essere anche dei mix. Il presenzialista ovviamente ha un pedigree assolutamente non ineccepibile. Abbiamo dimenticato di citarli, Cristina, sono gli squadrati, l'istituto di ricerca, esatto, che fa queste analisi sempre molto originali da raccontare anche. Sono bellissime da raccontare ma anche da vedere, perché di fatto fanno proprio una tavola sinottica, che detta così sembra una cosa molto, molto difficile, però la fanno con carta e penna e devo dire che ti avvicinano subito a questa descrizione, anche se volete molto colorita, ma che di fatto racconta proprio quello che oggi nel panorama italiano, non solo, è questo mondo del pet food e degli animali che vivono intorno a noi, che effettivamente stanno vivendo una grande, cioè stanno proprio bene, diciamolo, in linea di massima in Italia siamo molto attenti ai nostri amici animali, molti di questi vengono ritenuti proprio parte della famiglia, ricevono regali a tutto spiano e quando si va a fare shopping la copertina per il cagnolino, per il presenzialista, e l'osso un po' più grosso per il pantofolaio, che tanto non si muove, quindi non va a fare show con cappottini e scarpette. Io ho visto addirittura una volta passeggiare una signora che aveva un passeggino per cani con sopra il suo cagnolino. Io ne ho vista una anche col bambino, però poi per mano, col cane nel passeggino e bambino per mano. Questione di priorità, certo, sempre, Marco. È così. Probabilmente il bambino camminava più veloce, il cane un po' più lento. Ah, ecco. Un settore con dei numeri importanti, dicevamo, Cristina. Assolutamente, il settore cresce a doppia cifra, è un settore che sta andando molto bene, su cui peraltro anche voi sapete che io di GDO parlo spesso, proprio supermarket e ipermercati stanno dedicando delle aree molto molto assortite, molto complementari, addirittura in alcuni casi si vendono anche delle cards che si possono utilizzare per affittare un dog sitter piuttosto che per affittare del tempo per da dedicare, da dare ai propri cani quando magari non si può portarli fuori, però appunto soprattutto nel caso dello sportivo guai se si perde la sua passeggiata quotidiana. E quindi stanno aprendo anche molti negozi specializzati, non solo a Milano ma anche in tutta Italia, dove ci sono proprio delle aree dove si possono anche sentire pareri di esperti, addirittura consultare il veterinario. Pensate che ad esempio all'Iper di Milano del Portello, ma hanno appena aperto proprio un negozio specializzato di pet food store, dove volendo c'è anche un posto dove lasciare il proprio cagnolino mentre si fa shopping. Quindi come le aree bambini ci sono in molti supermercati, ipermercati e centri commerciali, in questo caso è stata creata un'area proprio per i pet dove c'è qualcuno che si prende cura del nostro animale mentre noi andiamo a comprare quello che gli serve. Insomma, un po' l'equivalente della vasca con le palline per i cagnolini, e mi piace molto, mi piacerebbe, anzi se vado a fare shopping mi piacerebbe di più andare a vedere i cagnolini che giocano. Grazie Cristina per questo suggerimento. Cristina, al prossimo sabato del villaggio, a presto. Grazie a voi, buon ciao. Pomeriggio a tutti, ciao ciao. Maria Luisa, invece l'appuntamento con te è domani alle 15, essere avere, puntata speciale tutta dedicata al salone, quindi parliamo di design, tutto quello che si è visto e si vedrà nei prossimi mesi nei negozi in tema di creatività, design, nuove tendenze. Allora, a domani e al prossimo sabato un del villaggio. Un saluto a tutti, ciao Marta. Voyage, voyage. Mi piaceva questo pezzo di tanti anni fa, ero qua che lo cantavo col microfono spento. Allora adesso vi twitto il quadrato dei cani squadrati, lanciato ora da Cristina Lazzati, chiocciola Cilazzati su Twitter. Adesso vi twitto il quadrato dei cani e vi ricordo anche che tra poco alle 17 sarà già disponibile il podcast del Sabato del Villaggio e poi alle 18 ovviamente dopo RadioTube anche il podcast di RadioTube. Adesso abbiamo la nostra viabilità perché abbiamo un ospite poi per l'ultimo quarto d'ora del Sabato del Villaggio che io accolgo con grande, grandissimo entusiasmo. Allora adesso andiamo ad aggiornarci su tutto quello che sta succedendo sulle strade e autostrade italiane. Ci ritroviamo tra pochissimo ancora al Sabato del Villaggio. Strade in diretta. Ben trovati al sud, code per incidente sulla 3 Napoli-Reggio Calabria tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord in direzione Salerno. Al centro oltre 3 km di coda per un incidente sul grande raccordo anulare tra Anagnina e la via Appia in carreggiata interna, con disagi in uscita allo svincolo per la strada statale 7 in entrambi i sensi di marcia. Al nord code di oltre 5 km per il traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Pero e Cormano, con rallentamenti in prossimità di Sesto San Giovanni in entrambi i casi verso Venezia. Per finire vi segnalo 3 km di coda per lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Desenzano e Brescia Est verso Milano. Queste le ultime notizie, a più tardi. Il sabato del villaggio. È il momento di un'amica che ci è venuta a trovare al sabato del villaggio. Tu che parti dall'idea che mai niente cambierà, come foglie sopra gli alberi, noi due cambiamo già. Sei sicuro che io sia solo quello che tu la vita, l'abitudine non fa vedere mai la verità. Sono l'anima che tu non chiedi, l'isola che tu non vedi, e te lo dimostrerò che io non sono quello che da sempre credi. Sono Beh, io sono contentissima perché lei è qui, ma io sono è anche il titolo del singolo che anticipa un album che io sono molto contenta di poter presentare. Vabbè, poche parole e subito buongiorno Paola Turci. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Che meraviglia Paola, sai che è un regalo questo album? Perché, allora, scrivere un'autobiografia si fa, tu l'hai fatto, sì. Non è facile, però insomma si racconta la propria vita. Raccontare la tua vita attraverso le tue canzoni, anche raccontare la nostra vita, cioè non so quanto tu sia cosciente del fatto che in quelle canzoni lì, oltre alla tua vita, c'è la vita di ognuno di noi che le ha vissute. Sono assolutamente cosciente, infatti uno dei criteri di scelta e anche di produzione delle canzoni era proprio questo, cioè considerare il rispetto per gli altri, per quelli che hanno voluto bene a queste canzoni. Partiamo dall'autobiografia, in realtà non racconto la mia vita, racconto quella parte di me, diciamo, più vulnerabile, quella piena di limiti, piena di errori, insomma. E questa antologia, questo disco Io Sono, è un po' la continuazione di questo lavoro che ho fatto, anche se qui non si parla di limiti, eccetera, si parla di musica e la mia storia realizzata con le canzoni. Abbiamo fatto questo viaggio nelle nuove sonorità, è un disco acustico elettronico, però dove dentro appunto ci sono canzoni di quasi 30 anni fa. Com'è aprire l'armadio e riprovare i vecchi vestiti? Beh, fa paura al primo momento, perché dici non mi staranno più perché sono ingrassata o sono troppo dimagrita. No, questa è l'epoca del troppo ingrassata. Dimagrita, anzi dimagrita, uno dice magari, vabbè, no? Vabbè. Dice, oh guarda, mi stanno larghi. No, invece c'è sempre il problema contrario, no? Chissà perché poi, forse perché ci piace mangiare, non lo so, potrebbe guarda, essere. L'eterno conflitto tra il carboidrato e i jeans, proprio. Sì, ma comunque... Sì, non è facile, un po' di timore perché pensi anche che appunto che non ti staranno più o che sono old style, no? Che sono scritti in una maniera legata un po' a quegli anni. E poi magicamente qualcosa non riesce. Io comunque ho fatto una selezione abbastanza larga, qualcosa è rimasto fuori, è rimasta fuori, ma poi ecco, sono riuscita, come dire, ad acchiappare quel sentimento che c'era prima e farlo veramente attualizzarlo. Ecco, questo ho fatto. Qualcuno ha detto: ma questa chi è? Ma questo è strano, questo pezzo, ma è Paola Turci, non è possibile. E quindi mi ha fatto anche in un certo senso piacere. Pregherò affinché tu possa avere tutto ciò che vuoi: soldi, macchine, una donna al giorno. E la possibilità di avere tutto e subito, senza aver bisogno di essere mai perdonato. I say fuck you, you will never know what's going on with my mind. So you better watch out. Sguardo spento, stai sudando freddo e parli al vento, non fai più il superbo né l'onnipotente, la tua voce incerta ti tradisce. Nelle tue note biografiche si dice che ci sono circa 30 anni di carriera. Cosa assolutamente impossibile, perché ne hai 25 anch'io e vedo assolutamente la matematica ancora nega, da compiere, compie a settembre, certo, non possiamo ancora votare per il Senato, no. Quindi ecco, è cambiato tutto il mondo in 30 anni, cioè la musica è cambiata completamente, cioè l'album quasi non esiste più, per i ragazzi ci sono i singoli, un modo di fruire della musica completamente diverso, cioè uscire adesso con un album, che impressione fa? Ma il mio destino, intanto volevo dirti che il mio destino, ed è stata anche una fortuna per me, è essere passata attraverso un periodo in cui il tempo scorreva più lentamente e poi essere, diventare donna in un periodo in cui tutto corre, tutto è molto veloce, molto velocizzato. Quindi se pensi che gli ultimi 15 anni sono stati proprio con il turbo, insomma, attraverso la tecnologia, grazie alla tecnologia, grazie al progresso, grazie ai vari cambiamenti, alla velocità con cui si sono alternati i governi, per dire, quindi a un cambiamento incredibile e improvviso del nostro modo di vedere la vita, di pensare, di credere anche. Noi, insomma, crediamo in un modo completamente diverso adesso, no? Di avere degli ideali, no? E questo mi dispiace un po' da un certo punto di vista, però ecco, questo mi fa pensare che, insomma, mi sono goduta un po' quel periodo che era un po' più rallentato, i famosi anni 80, anni 90, e poi mi sto godendo questo progresso. E fare un disco oggi ha appunto i vantaggi e i svantaggi, ma io tendo ai vantaggi, tendo a guardare, insomma, l'aspetto quello più piacevole del lavoro, insomma. Quindi oggi ho la possibilità di, appunto, di fare un disco, di realizzare un disco come questo. Ho una major che ancora alle spalle, come la Warner. Ho la possibilità, tra poco partirò in tour, adesso cominciano gli in store con la presentazione del disco nelle varie Feltrinelli, nei vari spazi dove posso incontrare il pubblico. Si comincia il 20 a Milano e poi si va, vedo, in tutta Italia. Tutta Italia, un po' meno il sud questa volta, ma recupererò con i concerti, questo è sicuro. Devo farti, per concludere, un ringraziamento totalmente personale, perché hai chiuso l'album con una delle canzoni della mia vita, nel mio pantheon totale, che Ti amerò lo stesso, in una versione molto particolare. Canzone che però mi ha fatto perdonare troppo, lo sai, vero? Cioè, quella canzone ci ha insegnato a perdonare troppe cose, adesso però si perdona un po' meno. Ogni tanto non prendere alla lettera quello che un cantante dice, ok? Accidenti, va bene. Hai ragione, sono troppa responsabilità. E qui ci vuole anche un saluto alla nostra Guia Soncini. Anche lei è una fan di questa canzone. Paola, dal 20 aprile io sono contenta che tu sia la mia conclusione. Grazie a Paola Turci per essere stata con noi. Grazie a te, grazie a tutti, ciao. Nonostante il vento, nonostante i passi delle notti uguali che riporteranno brividi, lungo schiene ed occhi dilatati, un poco affaticati ancora più di prima, o forse come adesso. Nonostante parli spesso ad alta voce e nessuno crede a ciò che dici, a quel che immagini, nonostante tutto io ti ascolterò quando non parli, quando non mi guardi, io ti vedrò lo stesso. Oh, ti aspetterò, ti chiamerò, cuore deciso, nella mente e nelle pieghe del viso sarai da curare, ancora un poco aggiustami le spalle che hai piegato, ritirati pure dal fianco se hai tradito. Io ti amerò lo stesso, nonostante voci. Io l'ho detto che era una versione molto molto molto particolare di questa Ti amerò lo stesso, che ragazzi, non ci posso fare niente, è una delle canzoni proprio che io amo di più in assoluto. Che meraviglia aver avuto Paola Turci con quest'album. Sono davvero rimasta, lo posso definire sorprendente, e definiamolo sorprendente. Poi mi dicono che utilizzo troppi aggettivi per gli ospiti. La verità è che io scelgo gli ospiti che mi piacciono, e cosa dovrò fare mai se non parlarne bene, benissimo. Intanto, se voi andate a curiosare su Twitter, l'hashtag è ISDV, il mio account è chiocciola Marta Cagnola, ma soprattutto quello di Alessandra Tedesco è chiocciola Ale Teddina. Andate a vedere come Alessandra Tedesco ha colorato il libro da colorare di cui abbiamo parlato prima. Lei dice, non sono Picasso. Allora, vedete come ho colorato io, vedete come ha colorato lei, vi divertirete moltissimo. Adesso però è il momento di dare la linea al nostro GR24, c'è già Gigi Donelli che sta consegnando il il copione del giornale radio in regia. Allora, GR24 delle 17, poi saremo ancora insieme per l'ultima ora del sabato, quella di RadioTube.